Victoria. Fino a 3 anni prima, di cognome faceva Folkova, viveva nella grande città russa di Ekaterinburg e la sua conoscenza della Svezia era limitata al poco che aveva studiato alle lezioni di storia e geografia. Ora invece si chiamava Brunberg e viveva a Silbo, a una decina di chilometri da Heby, nella Svezia centrale. Parlava svedese con un forte accento russo e non aveva né amici né un lavoro. Con un sospiro versò il tè bollente in una tazza nera con la scritta «Sweden Rock». Il vento si infilava gemendo nelle fessure della finestra. Fuori c'erano campi, boschi e cielo grigio. Facendo schermo con la mano per risparmiarsi la squallida vista, Victoria si sedette al tavolo della cucina e ci allungò i piedi sopra. Strinse le mani attorno alla tazza e chiuse gli occhi. Tutto in quel posto, in quel paese, faceva schifo. «Yuri», bisbigliò. «La principessa dei gangster», era così che la chiamavano i suoi amici di Ekaterinburg per prenderla in giro. Ma a lei piaceva. Adorava i diamanti, le droghe, le cene, i vestiti e l'appartamento in cui vivevano lei e Yuri. Tutte cose che aveva perso il giorno del suo 20° compleanno, quando Yuri era stato ucciso. Ormai il suo corpo doveva essersi decomposto fino a essere irriconoscibile. La sua schiena pelosa, le mani grandi, la mascella squadrata. Niente di lui esisteva più. Gli avevano sparato mentre festeggiavano il compleanno di Victoria in un nightclub. Il suo sangue le aveva macchiato la pelliccia bianca gettata su un divano del locale. Il killer avrebbe voluto ammazzare anche lei, ma il terzo colpo aveva mancato il bersaglio, uccidendo invece una delle guardie del corpo di Yuri. A Victoria non era rimasta altra scelta se non rifugiarsi a casa di sua madre, a un'ora di macchina dalla città. Era stata lei a suggerirle il sito in cui gli uomini svedesi cercavano una donna russa. «Gli svedesi sono gentili e malleabili», le aveva detto. Victoria aveva obbedito a sua madre, come faceva quasi sempre. Aveva caricato sul sito un paio di fotografie e nel giro di 2 giorni aveva ricevuto centinaia di messaggi. Tra tutti i candidati aveva scelto Malte. Nelle foto sembrava gentile, una specie di bambinone dagli occhi buoni, in sovrappeso e con l'aria timida. Le aveva mandato i soldi per l'aereo e 2 settimane dopo Victoria era entrata per la prima volta nella casetta gialla di Silbo. Dal cortile arrivò il rumore della moto di Malte. Di giorno lavorava al distributore Shell all'uscita di Heby. Victoria tolse i piedi dal tavolo e si affacciò alla finestra. Sotto la mole di Malte, la moto appariva minuscola, come un pony montato da Godzilla. Subito dopo arrivò anche un furgoncino bianco, che entrò in cortile e parcheggiò accanto alla moto. Lars aprì la portiera del passeggero, prese una confezione grande di birre e la trascinò verso l'ingresso. Era venerdì, avrebbero bevuto fino a crollare. Malte tirò subito fuori una lattina e la beve avidamente, facendo vibrare i rotoli di grasso che aveva attorno al collo. I 2 uomini sparirono dalla visuale di Victoria, che un attimo dopo sentì girare la chiave nella toppa. Entrarono senza togliersi le scarpe. Vedendo le impronte di fango umido e scuro che lasciavano sul parquet, Lars ebbe un attimo di esitazione. «Fottitene, la stronza sarà solo felice di avere qualcosa da fare. In fondo è a casa tutto il giorno», disse Malte senza guardarla. Lars sorrise imbarazzato, incrociando gli occhi di Victoria per mezzo secondo. Poi borbottò un saluto e posò la lattina sul tavolo. Malte si avvicinò al fornello. «Vediamo che schifezze hai preparato oggi», disse sollevando il coperchio. Indietreggiò per il vapore, strizzando gli occhi. Dopo averlo eliminato agitando un paio di volte la mano, guardò nella pentola, mentre Lars si apriva un'altra birra. «Patate. Bene, molto bene». Poi si diede un'occhiata attorno e allargò le braccia. «Tutto qui?» Non sapevo a che ora sareste arrivati. Adesso vi frigo delle salsicce. Malte sbuffò e guardò l'amico alle spalle di Victoria. Fece il verso alla moglie con voce acuta, calcando l'accento russo. Lars ridacchiò, spruzzandosi il mento di birra. «È carina, ma non particolarmente sveglia», proseguì Malte. Altra birra colò sul mento di Lars. Si sentiva addosso la puzza di cibo. Malte aveva promesso di aggiustare la ventola, ma non lo faceva mai. Victoria infilò i piatti sporchi nella lavastoviglie, mentre i due uomini stavano stravaccati sul divano, davanti al tavolino pieno di lattine vuote. Presto si sarebbero addormentati. Allora la giornata di Victoria sarebbe iniziata sul serio. Lanciò un'occhiata verso il divano per controllare dov'era il cellulare di Malte e si tranquillizzò quando lo vide appoggiato tra due lattine. «Avrei dovuto prendermi una thailandese, come hai fatto tu. Cucina migliore, pompini migliori», osservò Malte con un rutto. «Rimandala a casa, allora», ridacchiò Lars. «Già, perché no? Chissà se c'è il diritto di recesso sulle donne ordinate per corrispondenza», sbuffò Malte. «I soldi di sicuro non te li ridanno. Al massimo un buon omaggio». «Già, la merce ormai è stata usata e strausata». Le risate esplosero, proprio mentre la lavastoviglie si metteva in funzione.